Oggi è 4 aprile, siamo a Somma Vesuviana, ci sono io, Giulio è libera con me e siamo a casa nel garage del nostro ospite a cui lascio subito la parola. E ti chiederei di partire proprio dal tuo nome anche, semplicemente, nome e cognome. E cercando di raccontarci chi sei e che cosa fai nella vita. Mi chiamo Gaetano Romano, sono di Somma Vesuviana, quinta generazione di agricoltori. E facciamo agricoltura classica vesuviana, che prende un po' tutti i vari prodotti tipici dell'areale, albicocche, pomodorini, susine, prugne e tante altre cose. L'azienda ha 6 ettari di terra e questo è per quanto riguarda in più siamo in regime biologico e produciamo pure miele. Andiamo passo per passo, così approfondiamo tutte le cose che hai iniziato a raccontarci. Ti chiederei intanto se ti va di dirci quanti anni hai e da quanti anni fai agricoltura. Allora, diciamo che io sono stato per anni l'anello mancante perché mi sono occupato di logistica internazionale per 24 anni, poi è venuto a mancare mio padre e sono entrato nell'agricoltura, anche se comunque a casa mia ho sempre lavorato perché era un'agricoltura a livello familiare e quindi diciamo niente di nuovo, solo che mi sono dedicato a tempo pieno a fare questo lavoro. Ho 58 anni e diciamo sono circa 15 anni che faccio l'agricoltura a tempo pieno. Quindi, come dicevi, la tua è una famiglia che già nelle generazioni precedenti praticava agricoltura. Ci vuoi raccontare qualcosa di questa storia familiare? Sì, allora la famiglia Romano Masseria qua è iniziata l'avventura nel 1890 e man mano poi si sono succeduti insomma gli eredi, quindi mio bisnonno, mio nonno, mio padre e adesso ci sono io. Volevo far continuare questa avventura a mia figlia, però poi dopo ti racconto che insomma preferito fargli fare altro, quindi diciamo che sarò quasi sicuramente, tranne se non succede qualcosa di futuristico, però quasi sicuramente sarò l'ultimo della dynasty romano per quanto riguarda l'agricoltura. Alla questione diciamo, del ricambio generazionale ci arriviamo, perché è un tema interessante, ma proprio per costruire diciamo, questo percorso anche storico, ti chiederei se ti va di condividere con noi un poco una descrizione, un ricordo di quello che era l'agricoltura che tu hai conosciuto in casa quando eri piccolo. Ma se vuoi possiamo iniziare pure proprio dalle origini della famiglia. Allora, il mio bisnonno nel 1884 faceva ma non mi viene il termine, comunque era affittuario di questa masseria. E poi però ci ha saputo fare e all'epoca producevano una varietà di susine che si chiamano ancora, perché ce l'abbiamo ancora qualcosa, si chiamavano susine, no, susine, ma erano prugne, c'è cioè una bella differenza tra le prugne e le susine, erano le prugne alla San Giovanna, e queste qua, la Santo Pavolo, scusa, e queste qua venivano, cioè loro le facevano essiccare al sole e poi ci facevano un liquore. E lui proprio grazie a questa grande idea fece non so quante tonnellate di susine di questa Santo Pavolo E diciamo che con gli anni si acquistò, non solo si acquistò la masseria, ma poi insomma ingrandì, comprò circa una cinquantina di moggi di terreno. Insomma, da lì poi è nata tutta la nostra famiglia. Pure mio padre ha acquistato, pure mio nonno ha acquistato. Io sarà difficile che acquisterò qualcosa, ma diciamo che l'agricoltura che ricordo io era un'agricoltura, insomma, vinicola, vitivinicola. Si produceva tantissimo vino. Infatti, abbiamo la cantina, c'erano circa più di un mese a raccogliere sempre uva e a torchiarla. Insomma, la mia famiglia viveva di questo. Poi ci fu la crisi e quindi diciamo che quasi tutto il settore andò a farsi benedire e quindi si incominciò a produrre albicocche. E siamo arrivati a un punto di produrre circa 600-700 quintali l'anno di albicocche, oltre noci, noccioline. Però diciamo il grosso era tutto sulle albicocche. Quando c'è stata la crisi del settore vitivinicolo? La nostra negli anni 70 a salire, gli anni 70, diciamo quel tipo di prodotto che veniva fatto in questa reale era un prodotto che andava più sulla grande città, quindi c'erano diciamo i vinai, no? Questi qua che venivano a prendersi il vino perché poi lo vendevano alla spina. E poi sono nate queste grandi aziende, quindi non siamo stati più competitivi per quanto riguarda il vino e quindi abbiamo eliminato. E se vogliamo fare un passo indietro, qui era una grande zona di Catalanesca. E mio padre mi raccontava che negli anni 50 loro producevano tantissima Catanesca che veniva venduta come uva da tavola. Okay? Eppure lì c'è stato il crollo perché poi è incominciato a venire, insomma, a produrre uva da tavola dalla Puglia con Uva Italia, per dirne una, insomma. E quindi pure la Catanesca ha avuto il suo, diciamo, declino. Mo si sta riprendendo, sono circa una decina d'anni che si sta ritornando a queste vecchie produzioni. Però sono tutte cose, diciamo, mi dispiace pure dire di nicchia perché non mi piace come termine, però insomma è poca cosa, insomma, ecco, quindi. Il passaggio alle albicocche è un passaggio che precede il tuo ingresso in azienda, lo sviluppo della frutticoltura. Diciamo che la zona visivana è stata veramente, quando si parla di biodiversità, la zona visivana ha ancora tanto di biodiversità. C'erano, diciamo, piccoli appezzamenti di terreno, sto parlando dell'inizio del 1900, c'erano piccoli appezzamenti, si producevano già albicocche, però poi negli anni 60, 50, 60 si è avuto il clou dell'albicocca perché noi in quel periodo, quando c'erano le quattro stagioni, insomma, con le primizie, noi eravamo veramente, diciamo, cioè si faceva reddito, capito? Sia con le albicocche che con le ciliegie. E quindi insomma, cioè, si guadagnava abbastanza. Tant'è vero che mio padre, io a 13 anni avevo la Vespa, gli altri no. Perché? Perché diciamo era un'agricoltura abbastanza ricca della zona, proprio grazie alle primizie. Poi con la globalizzazione, quando sono incominciate a venire prodotti dalla Spagna, non siamo stati pure lì competitivi, ma più che competitivi, non siamo stati furbi perché abbiamo delegato il nostro prodotto ai commercianti e quindi è successo quello che è successo. Perché poi ti spiego il progetto che abbiamo fatto pochi anni fa con Slow Food. perché comunque il nostro prodotto ha molto da raccontare. E poi io che sono stato in Spagna a vedere come producono le albicocche, oppure tutta la linea delle albicocche francesi, eccetera, eccetera, non so, veramente niente a che vedere con il prodotto che facciamo noi. Però, ripeto, siamo, non ci sappiamo vendere, siamo, non riusciamo a fare massa critica e quindi siamo piccoli. Essendo piccoli in un mondo globalizzato non riuscirai mai a fare niente, perché se negli anni 70 le albicocche vesuviane, calcola che in Campania era il primo produttore di albicocca in Italia e l'80% delle albicocche si faceva nell'areale vesuviano, quindi ti lascio immaginare il che cos'era l'albicocca in questo, in questa zona. Io ricordo, ero piccolo, i commercianti venivano loro qua a casa a pregare mio padre per farsi dare l'albicocca. Quindi, e stiamo parlando, io avevo 7-8 anni, quindi più di 50 anni fa, le albicocche che scendevamo dalla montagna costavano più di 1.000 lire. Cioè, veramente facevi soldi, e potevi farti, facendo tanto lavoro, però comunque era reddito. E poi siamo arrivati a centesimi, quindi cioè, di cosa vogliamo parlare? E tu da ragazzo, da adolescente, collaboravi ai lavori della famiglia? Allora, gli agricoltori vesuviani sono a regime familiare. Siamo quattro figli e tutti e quattro abbiamo sempre lavorato in campagna. Oltre che andare a scuola, si lavorava tranquillamente in campagna. Ma era un fatto normale, cioè voglio dire, non c'era nessun problema, lo facevano tutti, non è che l'ho fatto io, l'ho fatto le mie sorelle, mio fratello, l'ho fatto io, insomma in tutte le famiglie si dava una mano, perché era così, insomma l'agricoltura nostra è questa. Però quando sei cresciuto hai scelto inizialmente un'altra strada, dicevi? Allora, ti spiego che è successo. Io sono andato a scuola e ho fatto fino alla terza media, e poi dopo mio padre mi disse: ma mo cosa vuoi fare? Insomma ero incerto, però dice: no vabbè, allora fai ragioneria. Feci ragioneria e mi diplomai, e come mi diplomai nell'84 andai a lavorare pure. Quindi ma secondo me 2-3 mesi dopo già lavoravo. E mio padre mi obbligò ad andare a lavorare come ragioniere, perché diceva che, sto parlando dell'85, diceva che l'agricoltura vesuviana era finita, quindi io dovevo vivere di altro. E tant'è vero che io, per dedicarmi all'agricoltura, ho aspettato che mio padre finisse, perché lui non voleva assolutamente che io mi facessi i suoi terreni, cioè lavorasse, mi mettevo a lavorare i suoi terreni, perché per lui era un lavoro che non era più, non invogliava, ecco, perché non ti dava quelle soddisfazioni che ti dava. Dice: noi, mio padre si è comprato tanti terreni, e tutti hanno sempre comprato qua in Massa, cioè la famiglia romana ha sempre comprato, e io non vedo tutta sta luce. Purtroppo, perché ripeto, abbiamo, scusa, puoi staccare un attimo. Dicevi che tuo padre non voleva, no, assolutamente non voleva, che tu facessi agricoltore. Perché? Era il momento della crisi? Era il momento dove si incominciava a vedere la crisi profonda dell'areale. Tant'è vero che noi che avevamo tante albicocche, facevamo 600-700 quintali, logicamente facendo 600-700 quintali, non tipo di all'epoca, poi figure, c'erano aziende strutturate, ma diciamo nel nostro settore, nel nostro campo, bisognava darle ai commercianti, e darle ai commercianti significava svendere il prodotto e quindi non ti rimaneva quasi niente. E allora perciò mio padre decise che non era più tempo di dedicarsi all'agricoltura. Siamo arrivati a quando tu ti dedichi all'agricoltura. Allora, io faccio questa scelta perché a casa mia nessuno ha intrapreso questa strada e quindi avendo 6 ettari di terreno così, insomma, mi dispiaceva vederli abbandonati e io ho fatto questa scelta. Ho fatto questa scelta perché poi si è iniziato a vedere diciamo, qualche spiraglio all'epoca col pomodorino del Pienino. Io sono stato uno dei primi. Mi dedicai a fare questo prodotto e all'epoca diciamo che c'era un bel margine, a differenza di adesso, insomma, si vedeva qualcosa e allora decisi effettivamente di, sempre però non tralasciando mai la vecchia strada, perché ritengo che la nostra albicocca ha dei grandissimi poteri. Perché è un prodotto eccezionale, quindi mi sono messo io, metto, io ho fatto, sai come faccio? Io prendo il mio terreno, diciamo quello là vecchio, stanco, faccio l'estirpazione dei vecchi alberi e ci metto il pomodorino per 3 anni, in modo che lo faccio riposare e quindi facendolo riposare, facendo una bella concimazione organica, allora vedi che il terreno già risponde in un modo diverso. E poi ci faccio la piantagione di una delle albicocche. Io sono uno dei pochi pazzi dell'areale che mette ancora albicocche. Io ho dei campi di albicocche che se le vedi sono qualcosa di eccezionale. Che mi dispiace quasi interrompere questa descrizione. Ti volevo chiedere, se entriamo un po' più nella storia, nella forma della tua azienda, no? Quindi che dimensioni ha la tua realtà produttiva? Quali sono, diciamo, appunto, le forme di accesso alla terra? Tu dicevi che terreni di proprietà in affitto e che cosa produce? Questo è un po'. Allora, come ti ho detto prima, la mia azienda è composta da 6 ettari di terra. E le produzioni, diciamo, quelle a cui tengo tantissimo sono le albicocche, il pomodorino del Piennolo, DOP, e il pomodorino giallo già giù e poi la catalanesca. Diciamo, queste sono le tre cose che faccio di più. In azienda. Poi ho tantissime altre frutte perché poi a me piace avere un po' di tutto, oltre poi al miele, che faccio parecchio miele pure, però di una sola varietà, mille fiori, perché a me serve per l'impollinazione, specialmente per impollinare i cachi. Io li uso tantissimo perché faccio pure parecchi cachi. E da quando ho messo gli alveari, diciamo che è aumentato dal 50% di cachi vaniglia, siamo passati al 70%, quindi una cosa importante, perché poi nel nostro areale se hai cachi vaniglia li vendi, ma se hai quelli allapposi niente da fare, ci sta proprio niente da fare, mercato non c'è, quindi per me è importante pure quello. E niente, queste sono diciamo, le tipologie di prodotto. Chiederei qualcosa in più rispetto ai metodi che utilizzi di produzione. Accennavi che sei regime biologico e anche, diciamo, stiamo registrando, quindi non si può sapere. Venendo, siamo passati davanti a un semenzaio, no? Quindi la selezione che evidentemente tu fai delle varietà. Allora, noi allora io ho iniziato con Gaetano Romano come coltivatore diretto. Poi per fare il primo insediamento avevo messo mia figlia. Ti devo dire la verità, avevo pure preso i soldi del primo insediamento, che erano circa 50.000 euro. Li ho rifiutati perché mia figlia in questi 5 anni si è laureata e ho fatto un po' come ha fatto mio padre, no? Cioè, gli ho detto, senti, Monica, si chiama Monica, mia figlia, è stata pure molto brava a scuola, si è laureata in statistiche attuariali, e quindi gli ho detto, senti, Monica, tra l'altro lavora già in una multinazionale a Napoli, e quindi gli ho detto, senti, ma lascia stare, non ti preoccupare. E quindi sono subentrato di nuovo io, sempre come Romano Gaetano. E poi in questo passaggio, perché mia figlia era cioè in regime biologico, io, mo che ho intrapreso di nuovo, ho passato l'azienda da Romano Monica a Romano Gaetano, mo devo rifare di nuovo la trafila. Però ti posso dire che sulle carte siamo biologiche, ma io il biologico l'ho sempre fatto, perché il biologico mio tanto io non uso, usiamo solo qualche insetticida naturale tipo spinosad, queste cose qua, oppure bacillus, ma cerchiamo di stare attenti. Per fortuna, con rispetto al pomodoro, con la tuta absoluta non abbiamo problemi, perché quando arriva abbiamo già finito. L'unico problemino ce l'abbiamo con il ragno rosso, e cerchiamo di stare, qualche volta tramite amicizia abbiamo utilizzato gli antagonisti, che però da noi non è che funzionano tanto bene, siamo un po' attenti, ecco. Oppure quando ce l'abbiamo in magazzino facciamo il vecchio metodo che si fa con le felci, insomma, come si faceva una volta, quindi ci riusciamo, insomma, a fare il prodotto. E qual era l'altra domanda? I semi, le varietà. Sì, allora, sì. Che canale? Allora, provengono? Noi, allora, per quanto riguarda diciamo, le piante fruttifere, faccio gli innesti, quindi sono innestature, me li innesto io. Quindi a secondo di quello che mi serve, io quello metto. Quindi noi usiamo porta innesto, che lo compriamo, che è un porta innesto, quindi è una pianta selvatica. E poi io faccio gli innesti come mi serve, tanto li so fare tutte le specie e li faccio. Per quando invece gli ortaggi, facciamo, non è che faccio il vivaio, però alcune sementi tipo i pomodori cerco di selezionarmeli, anche se comunque compro molto pure dai vivai, perché diciamo quando devi fare facciamo numeri importanti, da solo che vuoi fare, cioè ci vuole forza il vivai, quindi però mi faccio un angolino dove mi seleziono pure qualche seme, eccetera. Vabbè, ci tengo a precisare il fatto che Gaetano porta avanti questa pratica, diciamo, territoriale vesuviana, quella di innestare poi le cultivar più importanti del territorio, e questa è una cosa molto importante, perché porta avanti questa tradizione che c'è sempre stata, a differenza poi di altri territori dove fanno il fatto di comprare la pianta già innestata. Invece noi sul territorio vesuviano abbiamo questa vecchia pratica che alcune persone tipo Gaetano riesce ancora a portare avanti, non sono tanti, però questa è una cosa buona. Sì, perché poi quando vai a selezionare delle antiche varietà, tipo albicocche di una volta, tu sui mercati non è che li trovi, e quindi per propagarle l'unica cosa che devi fare, devi innestare le piante. Questa è una cosa che ho sempre fatto da piccolo, quindi già da quando stavo mio padre io innestavo io, non innestavo nemmeno lui, perché mio padre diceva che io ero più bravo di lui a innestare. Ho sempre avuto una certa manualità, ne faccio tantissimi, quindi... E poi innesto e usiamo ancora la pece a caldo, quindi, perché l'innesto con la pece a caldo è tutta un'altra storia. Parliamo invece della commercializzazione del prodotto, no? Cioè, nel senso, abbiamo parlato un po' di quello che produci, per chi lo produci, per quali canali, per quali mercati. Allora, per quanto riguarda il pomodorino del pienolo, noi facciamo sia il prodotto fresco, quindi quello appeso, sia il trasformato. Trasformato significa intero in salsa, a paccatella, in acqua e sale, cioè abbiamo diverse tipologie. Questo significa che ogni tipologia ha le sue caratteristiche, quindi deve essere inserito in delle realtà dove il prodotto viene valorizzato. Quindi abbiamo ristorazione, pizzerie, abbiamo pure gente comune. Per esempio, io ho fatto la linea dell'intero in salsa in latta, la usiamo, vengono le famiglie, vengono a comprare direttamente qua in azienda. Quindi ce n'è per tutti i gusti. Per quanto riguarda invece le albicocche, faccio il fresco. È la cosa migliore, perché l'albicocca fresca è qualcosa di eccezionale, profumo, gli aromi che ti dà. Però l'albicocca ha un problema, è molto deperibile, e quindi tu in quel mese devi cercare di non sprecare il prodotto. E quindi per ovviare a questo problema, facciamo la classica confettura d'albicocca, facciamo il nettare di albicocca, che in poche parole è il succo di frutta. Da quest'anno ho fatto pure il candito e spero di fare pure l'essiccato, perché sono delle cose che effettivamente danno poi grandi soddisfazioni. Ah, e poi l'albicocca sciroppata, che non fa quasi nessuno perché non conoscono le varietà, quindi mettono delle varietà che non sanno, non possono essere classificate sciroppate perché si ammollano. Perché nel nostro areale devi sapere che ogni albicocca della zona aveva il suo perché, cioè ogni albicocca veniva utilizzata per farne qualcosa. E c'è una tipologia che oramai si è persa nel tempo, che è un'albicocca durissima, che viene sciroppata, e ti posso dire che questa veramente secondo me avrà futuro. E le lavorazioni e le trasformazioni le fai tu o collabori con altre realtà? Allora, diciamo che ho avuto la fortuna di conoscere un amico che è Pier Francesco Amendola. E con lui abbiamo collaborazione per quanto riguarda la confettura, e poi ci sta una cooperativa che si chiama Genuino, che è a Trentola 200, e questo mi fa il nettare, e poi ho sempre una piccola azienda che mi fa il candito, anche se il candito diciamo è un prodotto che va solamente per pasticceri di una certa importanza, perché costa molto e quindi non vedo grosse potenzialità per noi piccoli, perché il prodotto se la suonano e se la cantano questi grandi, però poi vai a vedere il prodotto che viene fatto in un certo modo costa di più, e loro devono sempre ammortizzare i costi, quindi non la vedo come una fonte di reddito il candito, però è un fatto mio, quindi poi gli altri non lo so, però per me il candito non va. Rispetto alla commercializzazione, tu dicevi in parte vendita diretta e per il resto vendi a commercianti, intermediari, No, mercatali, grande distribuzione. allora, non mi piace. Io ho l'unico, diciamo, quasi tutti i contatti diretti, perché io Io sono, come disse Berlusconi, sono sceso in campo perché non voglio avere a che fare con i commercianti. Non hanno fatto niente, o hanno fatto tanto di quei danni nella zona, e quindi non ci voglio avere a che fare. Il commerciante vuole guadagnare quello che devi guadagnare tu per sopravvivere, quindi non va. Ho quasi esclusivamente vendite Cambiamo argomento in parte, però si collega bene a quello che stavamo dicendo. Tu all'inizio ci raccontavi di un'agricoltura familiare, quella che hai conosciuto. Oggi la tua azienda è ancora basata sul lavoro familiare. Come è organizzato il lavoro e chi lo fa? Tu, la tua famiglia, degli aiutanti? Allora, diciamo che sono abbastanza fortunato perché ho, i mezzi agricoli non mi mancano, quindi diciamo nella parte in pianura riesco a sopperire a una mancanza che diventa quasi acuta di manodopera, quindi il problema si sente e si risente, sperando che qualcuno voglia dedicarsi di nuovo a questo tipo di agricoltura. Però per fortuna ho i mezzi agricoli e quindi riesco a, dove c'è poi da utilizzare manodopera, ho una persona che mi dà una mano circa 5-6 mesi all'anno, io e lui insomma fatichiamo tanto, mi servirebbe qualcosa insomma diciamo da maggio ad agosto, cosa che diventa sempre più difficile trovare. È anche questo che diciamo mi impedisce di fare di più, perché vorrei fare di più, perché mi piace lavorare e mi piace pure dare lavoro, però purtroppo non se ne trova, quindi insomma, e quindi ci facciamo poco, di meno, anzi, di meno, perché poco no. Però di meno. La parte, diciamo, amministrativa commerciale la segui sempre tu o c'è qualcuno che ti aiuta? No, la seguo io perché poi diciamo ho fatto questo per 25 anni, quindi insomma un po' di infarinatura c'è. Certo, diventa pesante la giornata perché non si finisce mai, però ognuno, almeno abbiamo deciso in questo modo in famiglia mia, ognuno si fa il suo lavoro, quindi mia figlia lavora in una multinazionale, mia moglie insegna e io faccio l'agricoltore. Mi hai preceduto perché stavo per chiederti, sono tutti uomini le persone che hai nominato, ci sono donne in azienda o in famiglia e di che cosa si occupano? No, ripeto, oramai non c'è più nessuno, sono solo, sono figlio unico adesso, quindi. Siamo arrivati al punto del passaggio intergenerazionale, quindi in questo in parte ci hai risposto, no? Cioè hai una figlia e... Ne ho due Ok, veramente. raccontacelo tu. Allora, Se hai figli, figlie. c'ho due figlie femmine, eh. La prima Lucia, che pure lei è laureata in biotecnologia medica, beh, insegna a Roma, si è sposata, quindi insomma Lucia poi non ha mai voluto sapere niente di questo. Monica invece l'ho tenuta in azienda per 5 anni, però ripeto, era sprecata qui, quindi si fa il suo lavoro. Quindi perciò ti ho detto che io sono all'anno zero, perché sicuramente sarò l'ultimo della dinastia romana che fa l'agricoltura, perché gli altri non, assolutamente no. Anche perché non ci sono i presupposti per fare agricoltura attualmente nella nostra areale. Meno che però ci vogliono, non lo so, forse c'è qualche azienda, importante dell'areale, sono stati bravi, onore a loro. Però secondo me è diventato troppo difficile fare agricoltura. Scusami, in che senso, cioè, le altre aziende sono state più brave? Faccio un esempio, nel senso per far capire anche a noi come sono le aziende che tu pensi che siano state più brave solo sotto quale aspetto? Ma forse perché hanno creduto e quindi hanno coinvolto i figli, eccetera. Piglio esempio, Cantina Olivella oppure Terraviva, Casa Setaro, insomma tutte queste aziende che sono strutturate, stanno, insomma, stanno penso bene perché comunque stanno sempre lì, quindi anzi li vedo pure. Però sono certamente, per quanto riguarda il nostro territorio, sono pochi, ecco, sono pochi, poche le aziende che fanno agricoltura e soprattutto fanno reddito, perché poi fare azienda e non fare reddito, insomma, vale a poco, insomma, se no ce la suoniamo e ce la cantiamo. Perché mi sembra che l'agricoltore tutto deve fare tranne che il reddito, invece no, l'agricoltore deve fare reddito, perché il lavoro che... A parte che fa un'azione di preserva un territorio che è stato martoriato negli anni 70 e 80 con degli abusi edilizi pazzeschi. E già il fatto che noi preserviamo il territorio, oltre a ricordo nel 2017 si è incendiato tutto il Vesuvio e compagni, i nostri terreni non si sono incendiati, anzi hanno pure fatto da barriere per gli incendi perché erano belli puliti, sistemati e quindi ci dovrebbero premiare pure per questo. Vedremo, non lo so, può darsi pure che si incomincia a muovere qualcosa perché pure a livello regionale ci tengo a precisare che pochi anni fa non avevamo nemmeno l'assessore all'agricoltura. Mi sembra che si sta incominciando a muovere qualcosa. Io spero bene. E poi ci vuole qualcosa per coinvolgere i giovani, perché io, ripeto, il mio dispiacere più forte è proprio non vedere giovani, non vedere generazioni nuove che si dedicano all'agricoltura, ma fatte in un certo modo, perché poi si vedono meteore, cioè le meteore sono quelle generazioni che si vedono per 2 anni, massimo 3, perdono tutti i soldi che hanno investito e non li vedi più. Perché non è semplice fare agricoltura, specialmente nel nostro territorio. Perché abbiamo delle grosse problematiche, tipo esempio, non abbiamo acqua, quasi nessuno ha irrigazione, perché i terreni sono spezzettati, non è un solo nucleo e quindi pure se hai l'acqua, insomma, puoi portarlo, non è semplice. È perché siamo piccoli e quindi fare reddito con poca superficie non è semplice. Insomma, ci sono tanti perché. Approfondiamo, oltre a queste tematiche che hai nominato adesso, prima accennavi quella del reddito, vuoi raccontarci qualcosa in più da questo punto di vista? Qual è il problema dell'agricoltura da questo punto di vista? E te l'ho detto, visto che noi non possiamo fare un'agricoltura intensiva, perché ci manca il terreno, siamo tutti piccoli produttori, dobbiamo fare un'agricoltura particolare, tra parentesi, nel senso che dobbiamo cercare di campare con pochi ettari, qualcuno, diciamo che io ho 6 ettari, sono uno dei più grossi della zona. Se vai in un'altra zona con 6 ettari non sei nessuno. Quindi ti fa capire di cosa parliamo. Ripeto, essendo piccoli e non avendo estensioni di terreno, logicamente fai poco reddito. Quindi cosa devi fare? Devi produrre un prodotto, scusa il giro di parole, un prodotto che può avere un mercato importante. Perciò il pomodorino del pennolo ha preso piede, no? Perché il pomodorino del pennolo da noi si è sempre coltivato, però aveva un piccolo angolo di produzione per ogni imprenditore agricolo, perché giustamente si facevano solo i pennoli per il periodo natalizio. Poi c'è stato qualche persona che ha creduto in questo prodotto e l'ha portato a livelli importanti. E poi ci siamo accodati tutti, perché poi la dobbiamo dire la verità è questa. Anzi, se vogliamo fare pure il nome e cognome, Giovanni Marini è stato insomma l'ideatore di questo Ambramà. Però mo non dobbiamo fare l'errore che è stato fatto con le albicocche, perché mo nell'ultimo periodo il pomodorino del pieno mi sembra che sta diventando, almeno qualche azienda la stanno facendo diventare un prodotto industriale. Ma il pomodorino del pieno non è un prodotto industriale, ma non potrà mai esserlo, perché tu per fare un prodotto è importante, eccezionale, con quelle peculiarità gustative ne devi produrre poco, perché il pomodorino del pieno deve essere prodotto con poca acqua, ok? Già poca acqua, perché è vero, con i cambiamenti climatici un po' d'acqua ci vuole, ok, sono d'accordo, ma non è che ci metti le manichette e annaffi tutti i santi giorni. Facendo questo il pomodorino del pieno diventerà un prodotto mediocre, perché il pomodorino del pieno ha poca polpa e quindi più gli dai acqua e più diventa una cosa annacquata. Quindi c'è bisogno di tante cose. Quello che sta avendo successo il pomodorino del pieno, e quindi si sono tutti buttati sul pomodorino del pieno. Io invece il pomodorino del pieno lo faccio, e ne faccio diciamo poco, però non ho mai dimenticato le albicocche, e secondo me non ho sbagliato, perché col pomodorino del pieno bisogna stare attenti, perché col pomodorino del pieno si buttano tanti soldi, e quindi se hai un paio d'anni che ti va male, insomma vai a finire a testa in giù, perché i soldi ce ne vogliono tanti. Con le albicocche il discorso è diverso. Qua è una zona vocata per le albicocche, io lo dirò sempre e ripeto, abbiamo fatto tantissimi tavoli dove abbiamo messo tantissime varietà di albicocche, ma secondo me le albicocche vesuviane sono le migliori che esistono. Ma non lo dico da vesuviano, lo dico da come si può dire, da uno che si mangia le albicocche e che ne ha viste di cotte e di crude, e ritengo le albicocche, quando hai mangiato una provatarella, hai mangiato una pellecchiella, una vollese, eccetera eccetera, ma a dove vanno? Cioè, possono avere tutta la linea cot, ma a dove vanno? Ma non esiste. Facciamo e guarda, no, che io le ho pure qualche diverse varietà francesi, perché giustamente volevo capire, perché tu prima di dire che quel prodotto non è buono lo devi testare sul tuo terreno, no? per capire effettivamente, ti posso dire che tutte quelle che commercialmente vanno tantissimo non c'è paragone. All'interno di questo quadro generale, tu sei contento della tua condizione attuale? Allora, io dopo 24 anni seduto su una sedia, sono la persona più felice al mondo, stare in campagna, ma a prescindere che ci sono sempre stato. Però sai, poi quando lavori e stai dalla mattina alla sera dietro una scrivania, il discorso poi cambia. Sono contentissimo di aver fatto questa scelta di stare a contatto con la natura, perché sto tranquillo, beato, eccetera. Non sono contento a fine mese, cioè, quando lavoravo comunque prendevo il mio stipendio e non c'erano problemi in ufficio, però, perché quando lavoravo, io l'ho sempre lavorato. Invece quando, da quando ho fatto questa scelta, diciamo che lo stipendio non c'è più come una volta, ecco, il discorso è quello, fare reddito è sempre difficile. Prima, diciamo, ci sono due temi che volevo affrontare un attimo. Oltre a tutte le sfide che ci hai elencato, tra le sfide che ci hai elencato, due mi sembra che ti colpiscono molto a te, ma colpiscono anche me. Il primo è il fatto che i giovani non la vogliono fare questa agricoltura. Secondo te perché? Allora, diciamo che è stato sempre il discorso degli anni 70-80. Perché? Perché in quel, diciamo, periodo di tempo, l'agricoltura è andata a distruggersi, autodistruggersi. E quindi passa il discorso che se tu fai l'agricoltore sei uno sfigato. E i ragazzi oramai hanno questa concettura immagazzinata nel cervello dove chi fa agricoltura è uno sfigato. Secondo te come si può rovesciare questo, cioè come si può andare oltre questo limite? Per andare oltre questo limite ci vuole la professionalità, perché io non sono mai riuscito a capire. A volte mi faccio questa domanda, me la pongo spesso, perché dico, il dottore, per fare il dottore deve essere preparato, il farmacista deve essere preparato, ma pure l'operaio che ripara i camion deve avere la sua preparazione e così via. Ma io non riesco a capire perché l'agricoltore non deve avere titoli. Cioè, questo non va bene. Secondo me, se si prendono ragazzi giovani e si portano in agricoltura, il ragazzo non sa fare nulla perché non ha esperienza. Non ha esperienza diretta e nemmeno indiretta, perché il papà e, che ne so, lo zio, eccetera, eccetera, non hanno preparazione nemmeno loro. Cioè, c'è stata questa mancanza di generazioni che avevano tanta esperienza nel campo e quindi tu andavi a fare. Cioè, io ricordo quando ero piccolo, mio padre aveva diversi operai. E quando andavo in campagna, io non è che avevo diciamo, ero il figlio del titolare e quindi venivo trattato in modo, sai, diverso. No, gli operai che sapevano lavorare mi comandavano e dovevo fare determinate cose. E guai se non le facevo, perché tu era una scala. Tu quando entravi a fare agricoltura, visto che tu eri il garzone della situazione, dovevi fare i lavori più modesti perché tu non stavi in grado di fare quegli altri lavori. Però man mano imparavi, eccetera, eccetera. E perciò io so fare qualcosa perché ho avuto dei, diciamo, maestri che erano maestri di vita, maestri che ti facevano come si doveva girare un salice, come dovevi potare una pianta e così via. Tutte queste cose poi sono venute a mancare perché c'è stata una mancanza generazionale. Quindi c'è stato il salto e i giovani, questi qua parliamo di adesso, i giovani di adesso non sanno cos'è l'agricoltura e quindi a prescindere la evitano, perché ci sono un sacco di ragazzi che non hanno titoli di studi, che non vogliono fare niente, ma no, perché purtroppo non sanno che cos'è l'agricoltura. Perché poi c'è qualcuno che vuole, sai, è incuriosito quando facciamo qualche manifestazione, eccetera, eccetera. Però poi, capito? Questo è un lavoro che devi fare da piccolo. Devi devi iniziare da piccolo, perché da piccolo poi non dimenticherai le cose, perché è così, viene fatto in un certo modo. Non è che ti metti a fare l'agricoltore a 30 anni, tu a 30 anni non saprai fare niente e quindi non potrai, almeno per quanto mi riguarda. Io se devo prendere un ragazzo di 30 anni che non ha mai fatto agricoltura, ma come gli fa? Cioè, che viene a fare in campagna con me? Che viene a fare? A prendere la mazza da terra perché la dobbiamo bruciare? L'innesto lo sai fare? No. Sai potare? No. Cioè, non, hai capito? Sono queste le figure che a noi servono. Servono figure professionali. Oppure ragazzi che vogliono imparare. E questo si collega all'altra questione, no? Che hai toccato un paio di volte, cioè l'assenza di operai o operaie, no? O, da quello che mi sembra capire, è proprio un'assenza generale o è un'assenza di persone capaci, professionalizzate? Allora, se viene la persona capace in azienda, tu gli dai un tot. Ok? Perché giustamente la persona preparata tu la devi pagare e secondo me è giusto pure. Il prezzo lo decide pure lui perché si è preparato. Ma il problema è che non ci sono persone preparate, ma non ci sono nemmeno persone non preparate. Ok? Cioè tu non trovi dal manuale a, diciamo, a quello specializzato. Ok? C'è un appiattimento. Negli anni passati abbiamo, diciamo che questa cosa è stata sopperita da, che ne so, dai rumeni, dagli ucraini, quindi il lavoro materiale lo facevano loro, ma nemmeno loro ci sono più, perché i rumeni se ne sono andati in Romania perché hanno detto che qua non c'è niente da fare, perché conviene stare lì, guadagnare di meno, però almeno sei a casa tua. Gli ucraini con la guerra non si capisce più niente, quindi non ci sono nemmeno quelle figure, tra parentesi, che venivano giusto per fare dei piccoli lavoretti. Quindi gli italiani, ma non esiste proprio, quindi siamo in un vicolo cieco. Io ho parlato pure con qualche istituto agrario per cercare di indirizzare, però vogliono fare tutti gli agronomi, quindi nessuno vuole fare l'operaio. E vedremo, non lo so, vedremo. E tanto volevo chiedere, essendo prima un pochino conoscitrice della problematica del territorio, secondo te, facciamo un'ipotesi ottimista, diciamo che riusciamo a trovare delle persone che vorrebbero iniziare ad occuparsi di agricoltura. Secondo la tua ipotesi, quanto tempo, parlo in anni, non si potrebbe mai parlare di mesi, in quanti anni uno potrebbe ipotizzare di insegnare loro almeno le basi e poi se realmente potrebbe ipoteticamente anche creare un modello, diciamo, di scuola oppure un modello di, a volte quando anche la stessa regione ha fatto tipo dei... faceva noi concorsi, come si chiamano? I progetti di persone poi da inserire nell'ambito lavorativo. Non è mai stata fatta una cosa del genere nell'ambito dell'agricoltura, perché questo è anche il problema, che anche gli enti stessi non si sono mai posti la domanda, ma nell'ambito agricolo, che poi se andiamo a vedere è la radice di tutto, cioè quasi non si coltiva, non si mangia, finisce tutto. Potrebbe essere interessante queste cose? Allora, io ci ho provato, non dico, ci ho provato, qualche volta abbiamo fatto il corso di innesti, di potatura, eccetera, però sono meteore, cioè, capito? Non ti seguono, quindi non hanno quella curiosità, però poi, perché il nostro lavoro ci vuole molta manualità. Allora, ci sono dei ragazzi che hanno manualità e sono intelligenti e quindi perché no? Insomma, io penso nel giro di 2 o 3 anni un ragazzo riesce a capire, a fare le cose basilari, però diciamo le cose basilari che almeno per prendere uno stipendio buono, perché ripeto, Sono tutte cose, insomma, fare gli innesti, c'è una manualità perché hai a che fare con coltelli molto affilati, quindi insomma non è semplice. Tutto il nostro lavoro, se tu vedi tutti gli infortuni in Italia, non voglio dire una cavolata, ma mi sembra o primo o secondo posto a livello nazionale di infortuni in agricoltura. Quindi capisci che tu vai a prendere un tassello, insomma, che non è semplice. Perché tu poi insiamai si fa male l'operaio, stiamo a posto. Quindi devi pure valutare il gioco se vale la candela. E perciò serviva, più che altro serviva, perché tu quando prendi un operaio lo devi inquadrare, perché, ripeto, se si fa male sarà su cavoli. E se hai a che fare con ragazzi che non hanno esperienza, si fanno male. Quindi capisci il problema com'è. È un po' il cane che si morde la coda. Quindi ci vorrebbe un contratto di apprendimento, che non so se c'è attenzione di apprendistato, scusa, apprendimento. Apprendistato, non so se c'è nel nostro come agricoltori, se c'è oppure no, questa è una cosa che non lo so. Però tu non è che puoi prendere un ragazzo e portarlo in azienda, non esiste, perché sono cose, insomma, si arrivano i controlli, sono migliaia di euro di verbali. Tutto questo prima non accadeva perché era a livello familiare, ma tu pure se vuoi portare tuo figlio in campagna e ti arriva il controllo, ti fanno il verbale perché non lo puoi tenere. Capisci com'è complicata, insomma, sta cosa. E diciamo che la tua analisi è limpida e molto illuminante. C'è un però. Arriva un cul-de-sac, un vicolo cieco. Mi piacerebbe stimolarti, andiamo verso la chiusura, rispetto a, diciamo, se hai idee, intanto due cose. La prima è, qual è invece la tua aspirazione, la tua visione di lungo periodo? Che cosa ti piacerebbe vedere che succedesse? Allora, mi piacerebbe, io ho sempre lavorato in questo senso, fare gruppo, perché pure questo è difficilissimo nelle nostre zone, perché non siamo abituati. Noi non riusciamo a fare gruppo, semplicemente no perché siamo fessi o siamo scemi, perché non siamo proprio abituati a fare gruppo. Qua, visto che erano piccoli produttori, ognuno si faceva il suo. Quindi questo problema atavico che c'è, non è semplice debellarlo. Quindi mi piacerebbe fare, è il mio sogno fare un consorzio o una cooperativa, sia di lavoro che di piccoli produttori. Che se si riuscisse a fare un consorzio o una cooperativa di lavoro, secondo me sarebbe la cosa più bella, perché il nostro territorio riusciremmo a farlo rivivere come una volta. Perché io sto lottando pure nell'area, diciamo, collinare montuosa di fare i terrazzamenti. E questa è un'altra cosa che sono sicuro che ci riuscirò. Perché fare i terrazzamenti significa eliminare i rovi che hanno messo nel Parco Nazionale del Vesuvio. Oramai nel Parco Nazionale del Vesuvio, e Libera lo sa come li attacco, nel Parco Nazionale del Vesuvio abbiamo l'ailanto, la rubinia e i rofi che sono infestanti delle situazioni. Cioè, che parco è? Io non l'ho capito. Invece, dare questi terreni oramai abbandonati, circa il 90% sono tutti abbandonati. Io quando ero ragazzo, sto parlando 40 anni fa, ma e andavo in montagna a trovare i porcini, eccetera, eccetera. Era tutto bello pulito, tutto. Qualche volta trovavi qualche campagna abbandonata, eccetera. Invece adesso dopo 40 anni, ho cercato di capire dove andare. È stato impossibile perché c'erano solo rovi che non finivano più. E Quindi il senso qual è? Il senso che se tu vuoi avere un parco nazionale del Vesuvio ed evitare incendi, devi coltivare i terreni. Per coltivare i terreni non puoi andare con la zappa nel 2024, devi andare col trattore e quindi avere i terrazzamenti. E questa lotta che io sto facendo non la sto facendo per me, perché i miei terreni in montagna sono tutti terrazzati, perché noi li abbiamo terrazzati negli anni 80, prima che nascesse il Vesuvio, il parco del Vesuvio. Perché io dissi a mio padre e a mio zio, si guarda, ma chi ci viene da sta montagna? Noi dobbiamo terrazzare. Ci riuscì, feci fare i terrazzamenti e mo noi andiamo lì. Ho fatto, tu mi sembra libero, ci sei stato. E lì ho messo i pomodori che erano qualcosa di eccezionale. Tutto quello che metti là in montagna è migliore perché ci sta uno sbalzo termico importante e quindi riusciamo pure a sopperire al problema della siccità. Però ci devono dare un aiuto e questo deve essere fatto dal Parco Nazionale e dalla Regione. E sei arrivato a quello che ti volevo chiedere, nel senso che, data la visione, tu hai idea di piccoli passi, di misure che si possono intraprendere. Cosa puoi fare tu e cosa invece deve fare qualcun altro e chi? Allora, diciamo, ti ho detto prima che qualcosa sta cambiando e questo è vero perché dal primo insediamento a, per quanto riguarda la regione, al GAL per quanto riguarda i comuni alcuni comuni dell'area vesuviana, insomma stanno dando soldi a dei progetti. Quindi mo si stanno facendo pure la strada del turismo enogastronomico. Insomma, sta bollendo qualcosa in vento. Quindi dobbiamo essere preparati. L'agricoltore non deve solamente coltivare i terreni, ma deve avere pure una preparazione per quanto riguarda quello che lo circonda. E mi spiego meglio. Cioè, tu devi relazionarti pure con enti pubblici, perché è importante. L'ente pubblico non è che può sapere quello che tu nello specifico hai bisogno. Quindi portare sul tavolo di contrattazione le tue problematiche. E questo è importante, perché se non ti fai sentire, se non avrai mai voce in capitolo. Tu hai mai fatto esperienza di associazioni, cooperative, organizzazioni di categoria? Allora, mio padre è stato sempre coltivatore diretto, che significa, perché all'epoca, io ricordo, insomma, avevamo pure lo studio della Col Diretta a Simone Sivani, che non c'è più tra l'altro perché non ci sono più gli agricoltori semplici, quindi è scomparso pure il... Però io sono stato sempre restio a queste grandi associazioni perché non hanno questa linea diretta con i piccoli. Quindi per quanto riguarda le associazioni non ci credo, non mi interessa perché è solo un fatto politico. Per quanto riguarda invece chi fa il mio stesso lavoro, no, ci tengo molto e ho sempre cercato di fare gruppo, tanto è vero che con alcuni, che poi tra l'altro insomma siamo rimasti, ecco, perché quando abbiamo fatto le terre di Sparta, sto parlando di parecchi anni fa. Scusa, se puoi spiegare, diciamo, le varie realtà, quali sono, nel senso, le terre di Sparta, se ce la puoi specificare anche altre, perché non tutti poi sappiamo di che cosa... Sì, ma infatti mo entravo in merito. Allora, le Terre di Sparca era un'associazione non solo di agricoltori, però ci stava l'agronomo, ci stava l'avvocato, ci stava il commercialista, il consulente del lavoro. Erano tutte figure che, diciamo, davano una mano all'agricoltore oppure a chiunque voleva intraprendere questo lavoro, perché poi è vero, se tu vuoi diventare un'azienda agricola hai bisogno di diverse figure, no? Quelle là che ti ho elencato, perché arriva la forestale, ok? Facciamo un esempio, arriva la forestale che adesso sono i carabinieri e, beh, e vogliono da te il quaderno di campagna, tu glielo dai e dice vabbè, ma tu i rifiuti che usi dove li metti? Quindi tu sai cosa significa prendere una carta, un barattolo dove c'erano gli antiparassitari e quindi li devi smaltire. E quindi ci vuole l'azienda che ti smaltisce queste cose, insomma, per farti rendere conto, insomma, il nostro è vero che siamo una piccola cosa, però abbiamo bisogno di diverse figure. Per non parlare poi se tu trasformi il prodotto, c'è bisogno delle varie leggi che escono quotidianamente in Italia e quindi c'è bisogno del tecnologo alimentare. Quindi, voglio dire, hai bisogno di tante figure. E per ovviare a tutte queste problematiche, se ti metti solo tu non fai niente, perché non riesci ad abbattere i costi. Però invece sì, ci mettiamo tante persone, tutte queste figure vengono pagate da tutti e quindi si riesce ad ammortizzare i costi, no? È quello il senso. E noi partimmo all'epoca con le terre di Spartaco, dove eravamo una decina di produttori e tutti questi produttori avevano tutte queste figure. Fu un'idea non mia, fu un'idea di Angrisani, che è un'altra famiglia storica di agricoltori della zona. E devo dire, poi man mano ci siamo persi per strada, però quelli che hanno creduto in queste cose ci siamo ancora, che ripeto, per Francesca e me abbiamo collaborazioni, quindi qualcosa si è mosso, c'è rimasto, capisci? Di che anni stai parlando? Sto parlando del 2014, 10 anni fa, 2013-14. Perché vi siete persi per strada? È perché te l'ho detto che noi agricoltori della zona non riusciamo a fare squadra, capito? Ci stanno quelli là che ci credono perché hanno, diciamo, una mentalità più aperta, perché hanno fatto altro, ok? Ma quelli che sono nati come agricoltori, ti avevo detto io come mio padre, eccetera, eccetera, però io poi dopo ho intrapreso un'altra strada, quindi diciamo che sia, è vero, questo è vero, ho avuto una mentalità più aperta, ho avuto a che fare con mondi diversi e quindi riesco a rapportarmi diversamente. Invece chi non l'ha avuta, purtroppo è così. Ti volevo chiedere, adesso fai parte di associazioni, reti di qualche tipo? Allora, a parte questo, poi noi abbiamo... Io ho avuto esperienze pure con Slow Food, eccetera, perché c'era stato sempre questo discorso dell'albicocca che ti avevo detto, che si era quasi scomparsa sta cosa. E quindi decidemmo insieme, diciamo che sono stato proprio l'artefice, questo è vero, l'artefice del presidio albicocca del Vesuvio. E da lì andammo a Torino a fare Terra Madre e c'era pure con la Regione Campania, facemmo questa presentazione. E pure Slow Food mi è servita molto, ma sempre per un discorso di ampliare il territorio e di capire determinate cose, perché se poi tu non ti rapporti con gli altri e con realtà diverse, poi la puoi pensare, non la puoi pensare in quel modo, però insomma è importante rapportarti e niente, questo è stato. E mo stiamo facendo altre cose, però voglio capire bene, perché poi diciamo che io sono un po' sempre in mezzo. Un po' perché mi tirano, un po' perché mi piace, ma sempre per, ripeto, sempre per cercare di fare qualcosa per il territorio, perché Sinceramente, vederlo così, sai, è come una persona moribonda, quindi è brutta da vedere. Quindi il mio sogno sarebbe quello di avere un territorio bello, curato, senza immondizia, con gente che lavora, che fa lavorare i giovani, insomma, queste cose qua. Proprio l'altro ieri mi diceva che è stata fatta un'albicocca, è diventata IGP e si trova sotto le Alpi, nel territorio francese. Quindi ti lascio un po' immaginare, un'albicocca sta sotto le Alpi, già il fatto che sta albicocca sta sotto le Alpi, già mi suona strano. Ma poi che si è diventata un IGP nel territorio francese, mentre noi abbiamo no, un'albicocca, abbiamo tantissime varietà di albicocche, tutte straordinarie, non tutte, però diciamo quelle tipiche, straordinarie, non riusciamo a fare niente. Per capire, per chiarezza, nel senso, oggi sei ancora parte di Slow Food o non... Sì, faccio parte di Slow Food. E queste altre cose che tu dici, stai Ah immaginando, no, di che tipo sono? vabbè, sono sempre cose importanti, ma vediamo che succede. A parte che, vabbè, sono il... Legambiente mi ha attirato, ma lo faccio perché penso che tutto pure Libera lo fa. Cerchiamo di mantenere il territorio pulito, insomma, tutte le guerre che faccio io, lasciamo stare. Quindi collaborazione Legambiente, faccio parte del CDA Strada del Vino, ma sempre per cercare di fare qualcosa per la collettività, perché poi ti posso garantire che se, ci rimetto solamente, quindi, ma è un rimetterci che mi fa piacere, cioè voglio dire. Invece la mia era una domanda un po' più tecnica, a proposito del fatto che hanno fatto questa albicocca IGP nell'areale francese. Ma è una cosa che è partita dal comune di quella zona, dalla regione o proprio anche dall'ente statale in primis? Cioè per capire alla fine che cosa non spinge a creare un IGP dell'albicocca vesuviana? La regione che viene a meno oppure i comuni del territorio? Allora, l'IGP Libera viene fatto se gli agricoltori fanno richiesta che il prodotto diventa IGP. Quindi loro hanno ritenuto che il loro prodotto avesse delle peculiarità importate a diventare prodotto IGP. Noi purtroppo non riusciamo, abbiamo questo problema che non riusciamo a valorizzare quello che facciamo. Volevo chiederti, tu hai rapporti con gruppi di acquisto, gruppi di consumatori organizzati? No, mai. Pensi che un'alleanza con i consumatori di qualche forma possa essere utile? Allora, il problema mio te l'ho detto prima, io faccio tutto io, quindi se mi devo mettere pure a fare i gruppi significa che devo divorziare, che non mi dispiace perché oramai sono 33 anni che sono sposato, però hai capito qual è il problema? Significa non vivere più, perché poi io faccio un'agricoltura, non faccio chissà quante cose, però insomma faccio parecchia roba e parecchia, e se dobbiamo fare, mi piacerebbe pure, ma non c'ho proprio il tempo per farlo, capito? Che Senti. tu devi dedicare poi tempo ai clienti, perché il cliente vuole essere raccontato, il cliente vuole il racconto, vuole tutte queste cose che io non posso fare, perciò non ho mai fatto e non faccio nemmeno i mercati. Se dovessi pensare a che cosa ti può dare un ambito associativo, un ambito collettivo nuovo che nasce, che è diverso da quello da quelli di cui fai parte. Tu, se potessi scrivere una lista dei desideri, che cosa gli chiederesti di fare? Allora, te l'ho detto già prima, a me il In questo lavoro secondo me manca il fatto associativo perché tu facendo un'associazione, un consorzio, una cooperativa, chiamala come vuoi, metti tante figure che sono importanti per l'agricoltore. Quindi avere tutta questa cosa significherebbe avere laboratori che ti trasformano il prodotto, un ufficio vendita. Tutto quello che concerne l'agricoltura. E quindi fare agricoltura avrebbe un senso pure per la nuova generazione, perché ogni persona fa il prodotto, lo conferisce all'associazione di produttori e questi si dedicano alla trasformazione e alla vendita. Però tu avresti un lavoro minore, perché non ti dovresti interessare della trasformazione del tuo prodotto, di cacciare soldi perché poi non sai se li vendi, non sai il mercato se vuole, quale tipologia di prodotto vuole, eccetera, eccetera. Invece, avendo un'associazione alle spalle, una cooperativa, un consorzio, farebbe questo tipo di lavoro. E questo sarebbe l'ideale per l'agricoltore. Ti ringrazio. Figurati. Posso farti una domanda, questa proprio personale? Abbiamo raccontato, diciamo, un tipo di agricoltura che, come dicevi, no, gira intorno a dei prodotti speciali, specifici, delle primizie, dei prodotti anche quasi artigianali, come li descrivevi, che però, diciamo, riproducono, no, due, tre prodotti all'interno di un circuito commerciale più ampio. Mi chiedevo se tu che sei del mestiere, che sei del settore, è possibile per questo territorio provare una diversificazione delle culture, diciamo un po' più multiculturale, che affianca a questi prodotti anche altri che invece oggi vengono da altri territori? Allora, ci sono degli esperimenti che stanno facendo. In agricoltura, l'agricoltura ci insegna, basta pensare un po' alla scoperta dell'America, quella che era prima l'agricoltura europea e quella che poi è diventata con la scoperta dell'America. Gran Turco, fagioli, peperoncini, insomma, tantissime cose. Quindi, mai dire mai. Mo abbiamo il discorso dell'Africa. Ci sono dei prodotti, perché l'Africa sarà il boom nei prossimi anni, sia di abitanti che io spero pure a livello economico. Però l'Africa è ancora, ci sono tanti di quelle cose da scoprire pure a livello di agricoltura, di prodotti di quella zona. Che questo problema che stiamo avendo con la desertificazione, secondo me, alcuni prodotti potranno essere coltivati pure nelle nostre zone. Ti ringrazio, questa è la domanda che piace tanto a Libera, che faccio alla fine, Dipende. quando diciamo, hai saputo che ti facciamo un'intervista, cioè, hai pensato a delle domande che non ti abbiamo fatto e che ti faceva piacere che ti facessimo. No, figurati. No, bene o male, diciamo che ho avuto già esperienze in campo. No, chi fa l'intervista vuole capire il tuo mondo, quindi capire il tuo mondo, il tuo territorio, la tua esperienza, il tuo passato, il tuo presente. Quindi no, sono queste che bene o male sono le cose. E invece, vabbè, mi faccio io una domanda che forse sembrerà anche un pochino già un po' vecchiotta, però noi una delle cose che ci siamo chiesti all'inizio di questa volontà di fare questa intervista è anche il discorso dello sciopero generale che c'è stato, diciamo, in Italia. E ci fa piacere ancora sapere l'opinione di ogni agricoltore che intervistiamo, intervisteremo a proposito di questa problematica. All'inizio di risposta, ha detto che ci vogliono più trattori perché devi fare i terrazzamenti, devi Vabbè. andare con i trattori. No, allora, il lavoro manuale non lo puoi fare, quindi se i trattori ci vogliono, ci mancherebbe che non ci vogliono i trattori, e come fai a La mia era lavorare? solo una battuta. Sì, ok, ti Però, bastagliamo. io non ho, cioè, io ho ritenuto stupido fare questo sciopero perché tu non puoi chiedere alla comunità europea avere più insetticidi. Figurati se io, come il tipo di agricoltura che faccio io, se la penso come la pensano loro, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Anzi, noi dobbiamo cercare di eliminare gli antiparassitari, eccetera, quindi no, già questo fatto qua a me non mi interessa. Cioè, io se avrei fatto lo sciopero è perché gli avrei chiesto maggiore, più dignità per gli agricoltori, no, perché devo usare più medicinale, no, perciò non, no, l'ho ritenuto distante da me, capito? Perché io negli anni 70, 88-80, noi siamo andati a fare lo sciopero a Napoli. Io ero un ragazzino e abbiamo preso i trattori qua con le albicocche, le abbiamo portate a Napoli. Ma ti sto parlando, hai capito quanti anni fa? 45 anni fa. Però sono cose, ci sono cose fattibili secondo il mio pensiero e altre no. E questo sciopero per me era proprio da escludere. Va bene, Ci grazie, ci salutiamo. salutiamo. Ringraziamo Un'ora Gaetano. e 21 minuti Ah, di manco me lo sei. intervista. Grazie mille. Grazie Gaetano.